Andiamo a chiudere. Mi viene da sorridere perché devo presentare una persona che conosco bene, Alice Boni, che appunto, secondo me ci stava un intervento di Alice perché appunto Alice è una protagonista e animatrice del Folletto e della Terra Trema, però secondo noi ha anche una professionalità, fa l'urbanista di mestiere, quindi magari era interessante che ci raccontava anche lei due o tre cose così di quello che ha ascoltato. Prego, Alice Boni. Tra l'altro volevamo fare un saluto a tutti i giornalisti infami e Unione Padana che ad Abbiategrasso in questi giorni gli stanno rompendo i coglioni ad Alice, quindi ci sfoghiamo così. Lo so che non ci sono, però vabbè. Anche oggi è uscita un'altra roba.